giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. 8 gennaio 2000, Villa Altachiara, Portofino. La contessa Francesca Vacca Augusta si alza a mezzogiorno, è depressa. Il suo ex compagno Maurizio Raggio è improvvisamente partito per Miami. Il suo nuovo amante, il messicano Tirso, e l'amica Susanna Torretta si trovano nella villa. La contessa sparisce per almeno un'ora. Tirso e la Torretta non la trovano, invano la cercano in casa. La contessa invece chiusa in un armadio della camera rossa, quella di Raggio, e nuda, con il telefono cellulare in pugno, una bottiglia di whisky e una confezione di tranquillanti. Le due volte chiama il telefono di Raggio e quello di un avvocato. Tirso la rintraccia, la contessa si fa lasciare in camera a rovistare tra le carte e i documenti. Sono le 19. Francesca Vacca Augusta urla in lacrime: vado a farmi una nuotata in mare. Così sbatte la porta con rabbia e sparisce. La contessa attraversa la veranda, scavalca il muretto vicino al glicine, tenta di nascondersi e perde l'equilibrio. Lei precipita in una ripida scarpata coperta da una macchia mediterranea che termina sul ciglio della parete rocciosa a picco sul mare. Sono molti i personaggi che si muovono in questa vicenda che coinvolge l'alta società italiana. Francesca Vacca Graffagni nasce nel 1942 a Genova, ex indossatrice della Milano degli anni 60. Sposa nel 1974 Corrado Augusta. Si separano nel 1985. Il conte lascia alla ex moglie la villa di Portofino, quella di Cuernavaca in Messico, 4 appartamenti a Milano, gioielli e un po' di soldi. La buonuscita vale in tutto una 60ina di miliardi del tempo. In cambio, Francesca sottoscrive un accordo in cui rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica. Corrado Augusta muore nel 1989. Poco prima la contessa conosce Maurizio Raggio e ne diventa l'amante. È il figlio del proprietario del bar La Gritta. Quando il rapporto sentimentale si conclude, i due rimangono intimi amici e solidi soci in affari. Raggio amministra i beni della contessa. Tirso Roncado Chasaro è l'ultimo convivente della contessa. Giardiniere, figlio di un ministro messicano, un playboy. Domenico Vacca Graffagni è invece il fratello di Francesca ed erede legittimo del patrimonio della contessa. Susanna Torretta, amica del cuore della contessa, dama di compagnia, trentenne. Rocky Augusta, figlio del primo matrimonio di Corrado Augusta con Marisa Maresca. Teresa Podbial è la domestica presente a Villa Altachiara il giorno della scomparsa di Francesca. E sullo sfondo ci sono le vicende politiche nazionali che hanno visto coinvolte Francesca Vacca Augusta e Maurizio Raggio. Nell'ottobre 1994 la contessa Vacca Augusta è protagonista insieme al compagno Raggio di un troncone delle inchieste di Tangentopoli. Raggio e la contessa sono accusati dai magistrati del pool Mani Pulite di avere nascosto 30 miliardi in oro di proprietà di Craxi o del PSI riciclandoli. Per evitare la prigione, i due fuggono tra l'8 e il 9 ottobre del 94, prima a Monte Carlo, e poi in Messico nella tenuta di Cuernavaca di proprietà della contessa. La latitanza finisce per Raggio nel maggio del 1995, quando viene arrestato dalla polizia messicana. Per Vaccagusta il 13 marzo del 97, quando viene arrestata dalle forze dell'ordine messicane. Estradati in Italia il 20 maggio, tornano in libertà dopo la revoca dell'obbligo di dimora. La contessa patteggia 1 anno e 2 mesi di carcere. Dopo qualche giorno in carcere a Opera, trascorre l'estate 1997 agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in un prestigioso condominio nel centro di Milano. In seguito, torna nella villa di Portofino. L'inchiesta si muove su molti piani, i magistrati vagliano indizi, testimonianze. Suicidio, incidente oppure omicidio? Il racconto di Andrea Ferro. È il tardo pomeriggio dell'8 gennaio del 2001 quando il sostituto procuratore di Chiavari Margherita Ravera compare davanti al cancello di Villa Altachiara. La contessa è scomparsa da 20 ore, inghiottita dal mare, spinta dalle correnti. È il primo sopralluogo del PM mentre Portofino è già affollata dalle troupe televisive e dai cronisti. Il sopralluogo è meticoloso, il PM ascolta la ricostruzione dei carabinieri, poi interrogerà tutti quelli che al momento del tragico volo della contessa si trovavano a Villa Altachiara, cioè Tirso Ciasaro, messicano, l'ultimo compagno di Francesca Vacca, Susanna Torretta, ex commessa e grande amica della nobildonna, e la cameriera Teresa Podbial, polacca. Raccontano che nelle ore precedenti la caduta in mare Francesca Vacca aveva bevuto molto e fatto uso di tranquillanti, era agitata, improvvisamente scomparsa nel giardino, dice Tirso Ciasaro. Tra la procura di Chiavari e il comando provinciale dei carabinieri gli interrogatori proseguono per settimane, vengono sentiti tutti gli amici e i parenti della contessa, a partire da Maurizio Raggio, a lungo suo boyfriend e personaggio noto per le amicizie importanti nella Milano degli affari e delle tangenti. Il fratello Francesco Vacca Graffagni non crede all'ipotesi del suicidio, tantomeno alla disgrazia. L'accappatoio della contessa viene ritrovato l'11 gennaio sul fondale sotto la scogliera di Villa Altachiara. 11 giorni più tardi il corpo della nobildonna è ripescato in Costa Azzurra, la riconoscono attraverso l'analisi dell'arcata dentaria. I carabinieri del RIS setacciano ripetutamente la villa alla ricerca di una traccia che possa svelare una pista, ma non trovano nulla. L'autopsia conferma la caduta dalla scogliera. Nel frattempo scattano due inchieste parallele. Il messicano Ciasaro denuncia Raggio e il notaio Solimena. Dice di essere stato truffato, in ballo c'è l'eredità della contessa, ma i giudici archivieranno. L'altra inchiesta svela un giro di cocaina tra i VIP di Genova e della Riviera, con il coinvolgimento diretto di alcuni frequentatori di Villa Altachiara. Dopo 9 mesi di indagini il PM si arrende e chiede al GIP l'archiviazione dell'inchiesta. Francesca Vacca non fu uccisa. Il giudice accoglie l'istanza, ma sulla vicenda, a distanza di anni, continuano ad aleggiare sospetti e misteri. Così sono andate a finire le cose in sede giudiziaria. Ma il fratello della contessa non ci sta. Domenico Vacca Graffagni dice: la contessa Augusta non è caduta dalla scogliera di Portofino e non è neppure scivolata perché ubriaca. Francesca è stata uccisa dopo un litigio a Villa Altachiara. Per Domenico Vacca Graffagni, quello della sorella, è dunque un omicidio preterintenzionale. E punta il dito contro Tirso. Lui ha preso il 60% dell'ascito di Francesca e a Maurizio Raggio è toccato il resto, compresa Villa Altachiara. Da allora Tirso, secondo quanto racconta il fratello della contessa, è scomparso in Messico. Come dire, la storia al momento non è ancora finita.